tutte le ragazze che non ho avuto mai, che non ho avuto. Chissà con quale pezzo piangono, per quale frase si imbarazzano. Io le so di te soltanto mezzi vivi, siamo in crisi. Da quando non sorridi, da quando all'improvviso andavo via e tu impazzivi. Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore, perché nessuno parla. Tutte le ragazze come le canzoni d'amore. Potresti essere te, senza fine, le bugie che vuoi sentirti dire, per fare l'amore, canzoni d'amore. Essere te, senza fine, le bugie che vuoi sentirti dire, per fare l'amore, canzoni d'amore per tutte le ragazze.